Luca. Sono Maria Tinca, benvenuti. Accomodatevi, gagliardi. È la sesta puntata del salotto Porno Nerd. Stasera parleremo di sto cazzo. Oggi parliamo di sex work virtuale e ne parliamo con due ospiti italianissimi del settore. Parliamo di lavoro sessuale virtuale. Il lavoro sessuale è lavoro, con la stessa dignità di qualunque altro lavoro. E come qualunque altro lavoro può essere un'arte. E visto che il lavoro sessuale è direttamente connesso con il piacere, col godimento, l'arte di far godere, di dare piacere al prossimo è figlia dell'arte di saper provare piacere. Quindi lavorare producendo a se stessi e quindi agli altri piacere sessuale. È possibile superare questo paradosso che del lavoro e del piacere? Forse sì, ci serve ragionarci assieme, quindi non tanto, secondo me, trasformare il lavoro sessuale in un lavoro il più possibile conforme agli altri lavori, ma fare il processo inverso, cioè imparare dal lavoro sessuale l'insegnamento di quanto si possa superare il dolore, la fatica del lavoro e dare ricchezza, gioia, ausilio alla comunità attraverso invece il piacere. Un quesito che spesso veniva fatto in passato è sesso virtuale e come il sesso reale. Oggi questa domanda ce la poniamo molto meno perché l'esperienza del virtual sex l'hanno fatta in tanti e tutti più o meno si sono resi conto di quanto possa da un'esperienza virtuale scaturire un'esperienza reale, quindi quanto sia sottile il confine tra ciò che si vede, che si pensa e ciò che poi si manifesta nel corpo. La pornografia sicuramente è la narrativa che più dà ripercussioni fisiche, fisiologiche nel suo essere assaporata e goduta. Credo che le persone paghino per vedermi godere. Io ho cominciato a fare streaming per gli adulti molti anni fa. Ho iniziato per piacere, perché per me era estremamente interessante sperimentare questa connessione erotica di uno verso molti. Esistono varie piattaforme di video chat erotiche, tutte offrono dei servizi diciamo che facilitano la visibilità dei performer, quindi portano il singolo a farsi vedere all'interno di un collettore da grandi quantità di pubblico. Queste piattaforme vengono utilizzate sia da persone che desiderano condividere visivamente la propria sessualità a scopo ludico, sessuale, esibizionistico, ma anche artistico e politico. E poi c'è anche la possibilità di proporre spettacoli a pagamento. Quindi fin quando l'ho fatto per il puro piacere di connettermi con la collettività in maniera erotica e in questo modo veicolare anche un'immagine sovversiva della mia persona, quindi andare a destrutturare un immaginario sul femminile. E la destrutturazione dell'immaginario, parlo della mia autodestrutturazione, del mio immaginario, quindi io ho fatto self-hacking anche e soprattutto attraverso il mio esibizionismo, ma invece ho trovato molto faticoso e molto difficile gestire l'aspetto economico, cioè richiedere una retribuzione, farsi pagare i show sexy. È un po' come cercare di farsi pagare la giocoleria al semaforo, bussi ai finestrini insistendo, dopo aver fatto lo show, che ti diano un euro, due euro, poi magari se sei fortunato la moneta aumenta, però è quel tipo di relazione. E la difficoltà anche di portare una richiesta commerciale all'interno di uno scambio erotico è stata notevole. Io ho passato un paio d'anni di grande crisi in cui non ero più la stessa in cam, in cui non avveniva più quella magia alchemica di trasformazione che si innescava ogni qualvolta io accendevo la telecamera, in cui proprio sentivo fluire una cascata di piacere e sentivo che riuscivo a trascendere grazie al pubblico. Tutto ciò è andato messo totalmente in crisi nel momento in cui ho cominciato a dire retribuitemi. Questo perché molte piattaforme, ci sono alcune piattaforme di streaming che guadagnano sull'esibizionismo free con le impression, quindi non puntano tanto sull'acquisto dei token, anzi puntano sul favorire gli show gratis, perché loro comunque riescono a incassare danaro dalle visualizzazioni, mentre invece il performer che rinuncia a una trattativa commerciale ma punta alla visibilità o al piacere personale, quindi poi si trova a non poter trasformare in nessun modo in danaro la sua presenza e la sua azione nello streaming. Tanto che mi sono trovata anche a scontrarmi con una di queste piattaforme che sponsorizzava se stessa con lo slogan sesso gratis, porno gratis, quando invece stava sponsorizzando il mio lavoro e il lavoro delle mie colleghe, che non si stavano proponendo gratuitamente. Ma quindi in cam si vende la visione della propria sessualità a chilo, e quindi io più mi faccio vedere a fare cose pornografiche e arrapanti più guadagno? E soprattutto cosa arrapano le persone? E soprattutto cosa succede quando io vendo il mio stesso arrapamento? Se sei interessato a saperne di più del meraviglioso mondo del fare cam secondo Rosario Gagliardo, puoi cercare su Rai Play l'intervista che abbiamo rilasciato per Prima dell'Alba nel 2018 o 2019, credo. Invitiamo ad accomodarsi nel nostro salotto virtuale, nel salotto virtuale della Tinca, due ospiti molto speciali. Loro sono Pandone e Pandina di Radio Porno Panda, trasmettono regolarmente da un anno e mezzo circa su una grande piattaforma di streaming per adulti, e hanno elaborato uno show realmente strutturato, quindi non sono soltanto porno performer vecchio stampo. Noi alla fine siamo abituati a pensare che la cam girl e cam boy è una persona che occasionalmente, più o meno occasionalmente, si mostra durante l'atto sessuale della masturbazione o della copula. C'è sessualità esplicita nello show di Radio Porno Panda, ma non c'è solo quello, ma è un vero e proprio set radiofonico, dove vengono svolte conversazioni, vengono trattati argomenti, c'è una sigla, ci sono gli inserti, insomma una vera e propria trasmissione di intrattenimento che mischia cultura, svago e pornografia. Qual è il futuro delle webcam? Cosa il pubblico cercherà domani? Anche io sono su Canfor e mi puoi trovare a questo indirizzo. canfor.com/meioborg con la J. A metà dell'intervista avremo un frammezzo musicale di Lady Attila, subito dopo commentato da lei medesima. Ringrazio tutti e buon ascolto. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Banda. Buonasera. Io sono emozionato. Questi buonasera. Sono, questi sono famosi per davvero. Anche voi. Buonasera ragazzi, vi stiamo registrando. Stiamo registrando. Mica noi che facciamo finta di essere. Cos'è la porno radio? Radio Porno Panda. Radio Porno Panda. Grazie ragazzi. Radio Porno Panda, e noi la definiamo il cosplay di una radio, nel senso che siamo assolutamente coscienti che la nostra non sia una radio e manco si avvicina ad esserlo. Però ha iniziato a chiamarsi Radio Porno Panda perché cioè no, in realtà si chiamava solo Porno Panda. Poi però ci siamo annoiati di fare sesso e quindi abbiamo detto come riempiamo i momenti in cui non facciamo sesso, e abbiamo iniziato a parlare di cose totalmente a caso, e quindi è nato il fatto di essere Radio Porno Panda, ma non è una radio, cioè, cioè sicuramente rispetto a un'altra qualsiasi can e ci assomiglia a una radio, però non è una radio. Cioè allora diamo un altro tassello ai nostri ascoltatori. La vostra radio si guarda prima ancora che ascoltarla su una piattaforma di show pornografici. Intanto salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando, che non li abbiamo mai salutati, sarebbe anche carino. Sì, quindi. E poi su Canfor, che dire? Noi siamo approdati su Canfor, diciamo un po' a caso, cercando qualcosa che a livello di ascoltatori italiani fosse un pochino più alto rispetto ad altri siti, perché come sapete ci sono altri siti e non tutti hanno questa grande utenza italiana. Noi facendo quello che facciamo, soprattutto parlando per il 95% del tempo, era necessario che qualcuno dall'altra parte capisse che cosa stavamo dicendo. Noi non abbiamo iniziato su Canfor, noi esatto. Siamo nati una sera ubriachi come delle merde su chat Turbate, e proprio, cioè ubriachi ma proprio forte, cioè se non fossimo stati ubriachi mai avremmo acceso la cam e mai saremmo stati qui a parlare con voi adesso, perché l'alcol non fa sempre male. Esatto. Sì, può non sembrare, ma in realtà siamo un pochino timidi. Un pochino? Porca puttana, ma siamo lo tantissimo so che uno timidi. Se ci guarda dice vabbè ma figurati, in realtà siamo molto timidi, quindi forse in una circostanza semi normale era solo un pensiero che non è mai diventato concreto. Poi una era un po' ubriachelli, io gli ho detto senti ma sai che c'è, ma togliamoci questo sfizio, buttiamoci, e così abbiamo aperto la cam col portatile in condizioni oscene che non mi lascio neanche immaginare le condizioni che erano. Poi quella magari sera. Per curiosità se la, da qualche parte dovrei averle, vi mando delle foto, degli screen delle nostre prime trasmissioni. Ti prego. Non è che fa schifo, non esatto, è in una qualità oscena col portatile sul letto che ballava, sembrava di stare in mezzo al Titanic. Il film dove Pozzetto andava in città. e noi eravamo due streamer messi due montagnette che avevano esatto, questi esatto. felponi col capo. Abbiamo trasmesso con le felpe, i cappelli, cioè in condizioni veramente oscene. Ma perché? Perché era una roba che volevamo fosse solo un gioco, una roba che sai inizia lì e finisce lì. Quella perché noi abbiamo detto apriamo sto account e ci mettiamo lì a chattare con due o tre stronzi, cioè quanta gente vuoi che possa mai entrare in un sito dove guardi altri scopare. Non avevamo capito niente. No, esatto. Cioè pensavamo che non ci cagasse nessuno, pensavamo di finire proprio nella tipo 75esima pagina, sai, sai che ti entrano due utenti. Cazzo lungo 93 o Giovanni il siculo tantrico 81, no, sai, quello ti scrive: "Oh, minchia zio, falli in culo". Quello non si può dire. Scopale la bocca, ste robe qua, finiva lì, no? E no, erano in 7000 a guardare perché poi trasmettevamo senza tips, Chaturve ci ha sparati in cima all'home page col tag new, è successo un disastro sì, quella sera. Infatti quando abbiamo finito e abbiamo guardato il computer, perché noi abbiamo proprio messo il computer sul letto e l'abbiamo ignorato facendoci palesemente i cazzi nostri, e quando abbiamo guardato il PC io gli ho detto: ma scusa, tutte queste persone ci hanno guardato? E io gli ho detto: sono tutti i miei parenti. E allora lì abbiamo detto: ok, forse si può iniziare a pensare di fare qualcosa seriamente. Sì, fare gli zozzi ci piace, però cioè, non è che possiamo stare qua tre ore a aspettare che cosa poi. Ecco, la parte fondamentalmente, la parte noiosa è quella che c'è tra una tippata e l'altra, cioè se è una di quelle estate dove magari ci sono. Ma non è tanto il discorso di tippate, è proprio il discorso dove non c'è interazione. E appunto, nessuno gioca, nessuno ti fa, nessuno parla, nessuno gioca, nessuno interagisce, tu stai lì e ti guardi e dici: ok, ma nel frattempo che si fa? E quindi così è nata il mettiamo un po' di musica, facciamoli sentire qualcosa, e poi dalla canzone passi a inventarti dei giochi e a fare tutto molto più interattivo. E quindi poi così piano piano ha iniziato a dirci: ma voi siete una radio, ma dove possiamo ascoltarvi? E noi a spiegare che no, è solo su Canfora. E quindi poi abbiamo iniziato a dire: ok, siamo Radio Porno Panda. Ma... sai che questa è la storia del perché vi chiamate Pandi e Pandina? Credo di averla ascoltata una forse delle primissime volte che vi ho guardato. E l'ho trovata super sexy perché è molto intima. Adesso ve la lascio raccontare a voi, però la voglio introdurre in modo che venga apprezzata anche con la chiave di lettura che ho colto io. L'intimità molto profonda di questo, di questa cosa del trucco sfatto, no? Che non è propriamente, non so come dire, gola profonda, tette grosse, culo sodo, sì. Ok, ma trucco sfatto è più intimo, è più emotivo, è proprio molto, l'ho trovato super figo. Vai, raccontatela. E tu sai quanto io stia apprezzando il fatto che tu ti ricordi di questa cosa. Sì, quella del trucco sfatto è... ma no, ti racconto prima la storia di Porno Panda. Noi in versione fidanzatini, presso fidanzatini, in realtà siamo molto pucciosi e teneri, no? Lei è pigrissima, quindi non si strucca prima di andare a dormire, la mattina è tutta struccata, ma ha sempre un occhio nero ed era panda. Poi ho scoperto che fosse anche zozza, ho iniziato a chiamarla Porno Panda, ok? Ma non ho nessun merito in questa cosa, nel senso che boh, era Porno Panda così. Quando andiamo a iscriverci su questo sito, lei che è quella giovane dei due è quella che proprio che ha sempre... Io odio chattare, odio le chat, mi stanno proprio sul cazzo, io sono uno alla vecchia maniera, non possiamo vederci scopare, no? Chattare. Non la capisco questa cosa. Quando ci siamo iscritti sull'altro sito, lei mi dice: ma come si chiama? Io ho detto: metti un nome a caso, tanto chi vuoi che lo veda. Lei invece, essendo la professionista delle chat, ha detto: ma no, mettiamo un nome che vedono tutti, e ha scelto Porno Panda. Esatto. 01. Esatto. No, lo 01 è dovuto perché purtroppo su Canfor sembra che ci sia qualcuno che ha lo stesso nick, quindi abbiamo dovuto mettere 01. E la domanda che ci viene fatta più spesso è: ma sei una 2001? All'inizio è stata anche la nostra fortuna. fortuna, perché quello 01 non ha permesso a parenti e amici, cioè se tu vai su Google e scrivi solo Porno Panda, non trovi un cazzo di noi, invece scrivi Porno Panda 01. Quindi la zia Pinuccia, che ha sentito sta cosa di Porno Panda, quando è andata su Google a cercare Porno Panda, non ha trovato niente. Esatto, non ha trovato niente. Allora, visto che avete nominato la zia Pinuccia, io salto un attimo di palo in frasca e vi voglio chiedere: com'è cambiata la vostra vita da quando siete cam boy e cam girl? Oddio, da che punto di vista? Cioè, tipo, i vostri zii e le vostre zie vi chiedono di mimare un pompino a tavola alla cena di Natale o sono rimasti uguali? No, allora, noi abbiamo gestito con le conoscenze la cosa nella maniera graduale, nel senso abbiamo iniziato a dire agli amici intimi, poi ai parenti intimi. E come, cosa intendo per parenti intimi? Ci sono i parenti con cui hai più confidenza e i parenti con cui hai meno confidenza, ok? Quindi poi mi è iniziato con i parenti con cui hai un po' più di confidenza, hai iniziato a parlarne liberamente in giro, e poi prima di Natale uno sconosciuto ha mandato a sua madre un video anal da un'ora e la famiglia l'ha saputo. Anal nel senso che lei lo prendeva in culo? Sì. A tua mamma? Sì, no, sì, tua mamma d'amblè si è trovata la figlia col culo sfondato nel biglietto a Natale. Auguri. Sì, sì. Natale quando arriva. Sì, diciamo che c'era ancora una parte appunto della mia famiglia a cui io non l'avevo detto per si aspettava per una mia scelta. Esatto, cioè, noi comunque abbiamo scelto fin da subito di dire: boh, questa roba va fatta bene e le cose fatte bene, secondo me, non si possono tenere nascoste. Qua apriremo un dibattito infinito. Io litigo con i colleghi, si può dire colleghi e colleghe, sì, a riguardo. Cioè, io sono. Cioè, noi pensiamo non voglio rovinarvi la trasmissione, non mi fare dire cose. No, allora, diciamola così: noi pensiamo che così come quando tu decidi di aprire un bar, un ristorante, eccetera, eccetera, non ti nascondi, non dovresti farlo neanche quando fai questo tipo di lavoro, perché è come permettere agli altri di giudicare questa cosa. Senza contare che se vogliamo che questo cazzo di lavoro venga, cioè si inizi a vederlo con meno bigottismo, non dobbiamo essere noi i primi che si nascondono. Bravi, non è possibile, cioè, proprio bravissimo. Esatto. È un contro, è da matti questa roba. Poi io posso capire che ci siano delle situazioni in cui ti devi tutelare, però lo fai prima questa scelta, cioè non puoi approdare in questo mondo solo cercando di tirare su e non so neanche come descriverti quello che provo, mi dà fastidio, cioè è una cosa troppo delicata questa, bisogna affrontarla in un discorso che va oltre i soldi. Senti, volevo chiederti una cosa: hai sentito nella tua famiglia tranquillizzarsi o essere più destabilizzata dall'informazione che quella pornografia che vedeva come protagonista la figliola, no? La Santissima figliola, era all'interno di un progetto lavorativo, commerciale? Questa cosa gli ha dato più tranquillità della serie, ah beh, allora è un lavoro, o anche peggio, oh mio Dio, allora è anche perfino un lavoro? Non ne ho la più pallida idea. Non ne ho veramente la più pallida idea. Ti direi una cazzata. Io invece un'idea da questo punto di vista me la sono fatta. Ho visto che subito la reazione quando pensavano fosse una roba buttata lì a caso è stata: oh mio Dio, ti stai rovinando la vita, cosa stai facendo? Quando poi però gli abbiamo spiegato tutto quello che c'era dietro e quello che avevamo in mente di fare, secondo me lì hanno cambiato un pochino il giudizio, non nel fatto che abbiano accettato la cosa, assolutamente. E hanno detto: oh mio Dio, ti stai rovinando la vita, ma con un progetto. Ma a proposito di lavoro, due cam star, come vuoi, super fighi e molto organizzate, quanto lavorano? È troppo perché oltre, cioè, quello che facciamo noi lo capiscono o chi fa la stessa roba che facciamo noi come voi, o chi è veramente esperto del settore, cioè il fruttore occasionale pensa che sia totalmente a caso. Noi purtroppo, neanche per fortuna, facciamo pochissime robe totalmente a caso, quindi è, cioè, come diciamo sempre noi, in realtà di Pornopanda, quando accendi la webcam e apri il microfono è la parte più rilassante, cioè quando il lavoro è finito, perché poi c'è tutta una roba intorno, cioè il materiale per i social e i video che tu fai e vendi e i video che ti richiedono di fare e vendere. A questo aggiungi che c'è tutta un'altra serie di attività correlate, cioè che noi nasciamo come fotografi e videomaker, ok? Cioè fondamentalmente come una web agency che si preoccupa di creare materiale per altri. Poi è arrivata questa ondata di Pornopanda che ha totalmente assorbito il nostro tempo, ma rimangono altre cose che vanno anche fuori dal porno, quindi noi lavoriamo tantissimo. C'è proprio una serie infinita di cose da fare e io non ho più 20 anni, ne ho 23. posso chiedervi le ore? Cioè, tipo, allora vi spiego, il mio grande cruccio è sempre questa cosa di quanto sto lavorando, ma sto veramente lavorando? Ma quando ho smesso di divertirmi, ho iniziato a lavorare? Ma quanto sto guadagnando in relazione a quanto mi sto divertendo? Insomma, io questo per me è un po' il topic nella mia, uno dei miei topic, quindi volevo chiedere a voi se vi va, nel rispetto di quello che volete dire di voi stessi, però mi interesserebbe quante ore dedicate, quanto costa il vostro tempo, cioè se poi alla fine quanto il rapporto lavoro guadagno di che tipo è. Siamo come i carabinieri, cioè sei sempre attivo 24 ore al giorno, cioè ci sono volte che fai maratone dove lavori 10 ore di fila, a volte ci sono giorni che non ce la fai mentalmente a creare nulla, sembra strano, ma nel porno bisogna anche creare. E quindi magari non fai niente, poi ti parte la voglia, la scintilla a mezzanotte e vai avanti fino alle 8 del mattino, cioè non c'è. Al momento il rapporto guadagno e incasso lo definirei medio. Abbastanza da darti da farti credere, farti venire la voglia di andare avanti, ma non giustifica assolutamente il tempo di ore che gli dedichi. Ma come qualsiasi lavoro creativo, cioè quando facevamo molta più fotografia e molto più videomaking rispetto al mondo pornopanda era uguale, era la stessa cosa. Però sembra una cazzata, però se fai qualcosa che ti piace ti pesa molto di meno. Ti pesa molto, molto di meno, questa non è una paraculata, è la verità. Cioè... Io mi trovo molto bene in questo settore, non per il porno, ma per l'aria di libertà che si respira. A me i porno piacciono normalmente, cioè cosa intendo? Piacciono come piace una persona qualsiasi, sì, cioè ogni tanto c'è voglia di guardarti un porno, sì, io ho il trip delle coreane, ogni tanto piace guardarmi la coreana che succhia la cazzi a caso, e basta, finisci, io sono uno che cerca porno di continuo. Però mi piace quel senso di libertà, no? Che è lo stesso senso che poi ritrovi in quel tipo di persone che fanno il tuo stesso tipo di cose. Concordo con te pienamente. Allora, quindi, visto che non si fanno più miliardi facendo il porno, diciamo... No, vabbè, non li facciamo noi, gli altri li fanno. Vabbè, guarda, fanno. Io devo dire, nella mia breve panoramica ho notato che comunque proprio i cash, come in tutti gli altri settori, arrivano sui grandi investitori, cioè nei grandi investimenti, quindi... Noi artigiani, noi autori in proprio, siamo sul medio perché non c'è più quel boom pazzesco, magari forse dei primi tempi in cui era oro, non ce l'abbiamo d'oro perché ce l'abbiamo tutti, e quindi appurato che non possiamo più, come dire, far finta di avercela d'oro perché sappiamo che la voglia. Allora, io per esempio parto da una telecamera piazzata per piacere, però nel momento in cui ho trasformato tutto ciò in lavoro, mi rendo conto che devo stare molto attento a organizzarmi e sto mettendo a punto tutta una serie di tecniche mie, mentali, organizzative, per non dovermi trovare a farlo per lavoro. Cioè, quindi lavoro quando sono arrapata, ma non cerco di evitare di farlo quando non sono arrapata e che Voi questa cosa come la gestite? Lavorare e desiderio di scopare? È molto semplice, se abbiamo voglia scopiamo, se non abbiamo voglia non scopiamo. Cioè, farti un esempio, noi è 3 mesi che non scopiamo in live. È 3 mesi che non scopiamo in live. Sì, noi è proprio, non... cioè, questo è anche il motivo per cui è nata Radio Porno Panda, perché se non ci va di scopare andiamo in live in modalità soft e quindi si chiacchiera, si ascolta musica. Noi comunque facciamo sempre fisso 4 live da settimana, però decidiamo noi quando è veramente porno e quando è solamente radio. Cioè, e questo ci permette di non mancare mai e avere costanza. Per questo che c'è una grossa mole di lavoro dietro, che non ci obblighi a essere costantemente in live. A essere sempre col cazzo duro perché devi pagare le bollette, cioè. Esatto. Ma poi anche lì il cazzo duro, ma dipende, cioè, c'è fatto live, fa proprio il cazzo. Devo venire. Ah, la bolletta! All'inizio era così, all'inizio Sono passata. Io ho avuto una grossissima crisi quando ho incominciato a farlo, pensando che volevo guadagnarci del denaro e non perché ero costretta, perché ringraziando il cielo sono una persona fortunata, ho il culo parato. Però ho deciso a un certo punto che se dovevo guadagnare del denaro preferivo succhiare il cazzo piuttosto che ne so, andare a fare una qualunque altra cosa dove, come dite voi, magari le condizioni di lavoro sono meno allegre, meno libere, meno happy. E però ho vissuto lo stress di dire adesso come faccio a rimanere a godermela contemporaneamente pur dicendo lavoro, no? Dentro la mia testa. Per questo io voglio i vostri segreti. Questa cosa che ma il nostro segreto, scusa se ti ho interrotto, però il nostro segreto è in realtà è quello che vedi. Cioè, noi per non annoiarci in quello che facciamo abbiamo deciso di farlo diventare questa specie di radio pornopanda. Sì, a noi piacerebbe avere, allora, parte radio, sì, ci piacerebbe avere un palinsesto un po' più consistente. Quindi portare delle persone in radio a parlare o a scopare? Dipende dalle voglie che hanno le persone, cioè, non... Scusa, io se devo venire a parlare non vengo, se vengo a scopare vengo. Sì, però... Ah, non mi avevate invitato! No, allora, l'esempio più vicino a quello che ci piacerebbe essere sono i cugini francesi di LSF Radio. Cugini francesi di LSF Radio? No. Non li conosciamo. Noi siamo dei Anche loro venu della radio, ragazzi. No, ma è una radio di Canfor, una radio francese. Spaccano veramente i culi. Radio anche loro trasmettono come voi? Sì. E loro sono stati quelli che mi hanno dato la svolta, cioè io li ringrazierò sempre, perché quando noi abbiamo iniziato a fare sta roba, minchia, voi siete creatori di contenuti e forse riuscite a capirmi al volo, cioè quando crei qualcosa da zero i punti di riferimento sono importanti. Quando non ci sono punti di riferimento tu sei lì che dici, ma qua rischio di sembrare scemo, funziona o non funziona? Quando una sera è entrato uno e fa, minchia, ma voi siete come loro, sono andato a vedere chi cazzo fossero questi. Ah, mi si è aperto un mondo, mi ha dato una grossissima forza questa cosa, sapere, ah, ma allora non siamo soli in questo universo, c'è qualche altro pazzo che ha pensato si potesse diversificare, si potesse, un po' il porno stiamo cercando di fare e di creare una community che sia viva, cioè si possono unire le persone. Gusti per tutti i gusti, yes, sono molti gusti, vado bene a tutti, pure a quelli brutti, sono una vera pussy, sono una vera pussy. Tu sei un vero man, ma non il mio fran, ti manca il toy man, non sono toy ben mulchare. Sono molti gusti, quindi multifunzionale, il tuo cazzo invece è poco solidale. Per una cagna che si vuole soddisfare, questo no, non lo posso tollerare. Ma a me fai grosso me, sì lo succhio, dovrei scopare a terra per te. Adesso senti, ma frate, lingua a terra, la tua pussy peste latex. Mo ti insegno le istruzioni, ti lubrifico emozioni, stringendoti le corde e coglioni. ad ottenerli grossi come due limoni. E se le cose che dici mi danno malumore, userò il mio culo per soffocarti le parole con latex. No, non c'è competizione, sono una cagna che ne sa di sottomissione. Bussi bussi per tutti i gusti, yes, sono molti gusti. Vado bene a tutti, pure a quelli brutti, pure a quelli brutti. Sono una vera bussi, sono una vera bussi. Ciao, Rosario Gallardo, io sono Lady Attila. Ciao, io sono Pino B. E nulla, riguardo la nostra canzone, il testo è stato scritto da me, Lady Attila, e la produzione è di Pino B. Per quanto riguarda il testo, questo testo è stato scritto in un mood di quarantena, quindi chiusi in stanza tra vari deliri e soprattutto in risposta ad un'altra canzone che era un po' contro le donne troie soprattutto, e quindi mi è venuto in mente di scrivere una canzone in risposta a quest'altra molto becera, devo ammettere. E quindi abbiamo deciso di produrre questa canzone, il tutto registrato con un registratore ambientale. Qua lascio la parola a Pino B, che si è occupato giusto appunto della produzione e dell'adattamento dei suoni. E nulla. Sì, diciamo che questa canzone è nata con degli strumenti un po' improvvisati, appunto. E ho dovuto adattare questa voce registrata un po' così alla buona con una base che, diciamo, si amalgamasse coi suoni. L'idea era comunque di fare un pezzo abbastanza sexy, quindi l'intento del beat era rendere il tutto molto sensuale. E niente, è stato divertente, così estemporaneo, e comunque ha dato il via anche ad altre collaborazioni, diciamo. Esatto, stiamo producendo almeno altri tre brani. Sì, esatto. In generale. Comunque tutto ciò è stato svolto a super, a distanza. Super distanza, con chiamate 24 su 24 e nulla. Questo è quanto, e comunque viva le troie. E Bruno, siamo nudi per te. Esatto, esatto. Maria Tinka, per te siamo pronti a tutto invece. Esatto. I love Rosario Gallardo! Mi sento un po'. Cioè, vorrei che mi adottassero il Rosario Gallardo. Sono molto vicino a loro, gli devo tantissimo. Ci sta. Ciao Rosario. Ciao. Scusate, stavo facendo un vidietto perché non ho messo la cam, allora faccio almeno un vidietto per i nostri fan. Vai, io vi registro, non vi preoccupate se io intanto mi faccio un filmino al buco del culo mentre voi parlate, non è il momento di imbarazzarsi. No, mi sarei offeso, no, tu non l'avessi ancora fatto. Esatto. Ma scusa, ma questo non si filma l'anno neanche una volta, mi sono chiesto. Ma che è? Io odio profondamente quelli che entrano e scrivono che zoccola, che troia, no, cioè questi li bando proprio, cioè, proprio come se non ci fosse un domani, una roba che non sopporto, che non mi piace. Sono sofisticati un po', no, e dimmi perché, ti prego, perché dato che è una delle cose che a me arrappa di più quando mi dicono zoccola e troia, mi piacerebbe avere l'altra campana. Io lo trovo una roba molto molto dispregiativa, se detta appunto appena entri, cioè allora un discorso in è realtà, stiamo giocando, stiamo interagendo, c'è un'interazione, ok, e se questa questa cosa ti fa eccitare, posso anche accettarla, ma che tu entri magari mentre stiamo ascoltando la musica o stiamo parlando di qualsiasi cosa mi viene per il cervello adesso, il virus COVID, esatto, che troia, che zoccola, no, te ne vai a fanculo, mi dispiace, ma no. Quindi devi dire, ma vai da Meyerborg che lei apprezza. E Pandore mi dice, ma che cazzo di panni, siamo su un sito porno. Infatti, ma perché io dico, cioè, tu vai dal macellaio, entri dentro, stai ordinando un po' di presaola, arriva uno, mica che troia, e io, insomma, tu mi giro, ti ho attestato adesso di per terra, sei su un cazzo di sito porno, hai la vagina aperta, ti stai sgrillettando, cosa cazzo ti deve dire, cioè è un sito porno, cioè, no, non... niente, non ce la faccio più forte di me. Negli anni che facevo Porno Panda ho cambiato un sacco di cose, mi sono un sacco limata, ho cercato, mica, di vedere un anno e mezzo fa potevi respirare, non potevi respirare, ma no, tutti, era tutto un bumper, era tutto un ban, una roba simpa, bei tempi, mi irritavano. Sì, comunque noi, cioè, ti vorrei dire, cioè, abbiamo il moderatore che ci chiede di tenergli il conto, ne abbiamo bannati quasi 1700. Oh. Pandina, quanto sei cambiata? Cioè, nel senso, che lavoro su di te hai dovuto fare per trasformarti in una cam girl funzionale? Cioè... Allora, visto che questa roba porterà via 4 puntate della tua trasmissione, ma noi possiamo anche riaggiornare. Un caffè e torno subito. Io saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ci vediamo fra 3 settimane quando la Pandina avrà finito di rispondere a questa domanda. Partirà probabilmente dall'asilo, no? Dai primi tempi in cui ha iniziato questo suo processo evolutivo, e forse prima dell'1:15 arriverà a raccontarvi della prima puntata di Radio Porno Panda. Dai, vai via, stupida. Allora, no, in realtà io non ho dovuto cambiare solo un pochino questa timidezza, e soprattutto in realtà quello che spiego quando parlo di questa roba, no, con magari anche le mie amiche, che loro mi dicono, mio Dio, non riuscirei mai, alla fine gli spiego che in realtà questa cosa a me ha fatto un sacco, come posso dire, crescere a livello di autostima. Io ho sempre avuto l'autostima sotto i piedi, il mio corpo non mi piace e tutt'oggi non è che proprio mi guardo allo specchio e dico wow, che meraviglia, però diciamo che fare la cam girl mi ha permesso di apprezzarmi, soprattutto perché ho un mondo dall'altra parte che mi apprezza e mi fa capire che forse qualche qualità buona c'è, e questo effettivamente mi ha permesso di aprirmi caratterialmente molto di più e soprattutto di essere un pochino meno chiusa, un pochino meno timida col mondo che mi circonda. Questo sicuramente mi ha cambiato tanto, però sicuramente il cambiamento maggiore è stato quello che mi ha fatto un po' apprezzare quello che fondamentalmente sono e che non vedevo. Pandone dice che io mi sono sempre nascosta fingendomi un brutto anatroccolo. Effettivamente io ho vissuto la mia vita così, un po' nascosta dietro felponi e tute larghe, senza farmi vedere troppo. Ancora oggi un pochino alle volte mi rinchiudo nel mio guscio, perché alle volte un pochino mi manca essere quella un po' invisibile che passa in mezzo alla gente e nessuno la nota. Questo lavoro ti permette di apprezzarti, ecco, e quindi questo è stato il cambiamento maggiore. Ho iniziato ad apprezzarmi alla tenera età di 30 anni, ho iniziato ad apprezzarmi. Che però molte persone non sanno, perché se non lo fai non lo sai. C'è anche nel libro di Annie Sprinkle, uno dei libri di Annie Sprinkle, dove lei racconta, mette, adesso non mi ricordo qual è il titolo, però lei mette, conosci Annie Sprinkle? Annie Sprinkle è una famosa pornostar della Golden Era della fine degli anni 70, che ha iniziato a essere una pornostar consapevole e femminista negli anni 80 con altre amiche e altre sex worker, e poi ha ideato e firmato il famoso Post Porn Modernism Manifesto, che è il primo documento in cui si parla di post porno, e ha continuato, diciamo, a fare cose, come dire, correlate al sex work, ma anche alla politica, al femminismo, e ora è anche una fantastica signora di una certa età che ancora fa questo progetto di Ecosexual, che è una specie di come dire di unione tra l'ecologismo e la pornografia e la sessualità. È una persona molto attiva che ha fatto la storia del porno nel mondo e ha scritto questa sua autobiografia molto carina, in cui parla appunto di come dentro di lei c'erano due istanze, no? All'inizio, quando ha iniziato, quella che voleva essere invisibile e timidissima, e quella che ogni tanto prendeva il comando e che voleva farsi vedere da tutto, e che era Annie Sprinkle, perché non è il suo vero nome. Quindi c'è la sua foto cioè prima di essere pornostar, col magliettone, la faccia smunta, il capello in faccia, l'arietta smarrita, sai, tipo, oh papà ci sono anch'io, il brutto anatropolo. E poi c'è lei, pornostar di successo, super figura, super arrapatona, con la foto di fianco, no? Che è una regina, una padrona potentissima. E quindi tu racconti, ecco, io a pensare a quello. Ho vissuto tutto esattamente questa roba, in realtà ancora un po' la vivo, questa distinzione delle due me. Raccontateci un attimo la vostra sessualità reale, cioè quella che fate per voi è cambiata, cioè non so, scopate di meno, scopate di più, scopate solo tra voi, scopate anche con gli altri, tutto, raccontateci un attimino come funziona. La nostra sessualità sicuramente nei momenti dove Porno Panda viaggia al 100%, hai meno voglia poi cioè hai meno voglia della tua intimità, ok? Perché cioè hai meno voglia e meno tempo. Sì, cioè, mio marito, non mi puoi scopare prima di fare la cam, perché poi siamo tutti spompati, cioè. Esatto, e ti passa ogni fantasia. Sì. Nei momenti in cui lavori tanto, e mi riferisco alla parte di lavoro, quella dove devi usare il cazzo e la vagina, nei momenti molto intensi sicuramente nel tempo libero hai meno voglia e meno tempo di avere intimità, ok? E invece riguardo a quello che dicevi tu, cioè che dicevi a tuo marito, non puoi scoparmi prima di una live, questa è una cosa che a volte è eccitante, a volte è frustrante, perché sei lì che ti parte la scintilla e dici, ma c'è la live, servirebbe andare in live fra tre ore, è meglio arrivare carichi, anche perché ripeto, non ho più 20 anni, quindi dopo tre ore sono carico, ma non abbastanza. Alcuni giorni lo trovi magari un pochino stressante, perché dici, sì, ma che palle, però se c'ho voglia di scoparti adesso, cazzo, ci devo scopare forse tra tre ore. E poi ci sono anche delle live che saltano, i nostri utenti lo sanno. Sì, noi... è successo un sacco di volte che inizi a farti due coccole mezz'ora prima, però non è che puoi fermarle ste coccole. E poi dici, oh ragazzi, scusate, ci è scappata un po' la mano, portate pazienza, ci si vede domani. Tutto quello che ruota attorno al porno panda, al sesso e alla trasgressione l'abbiamo praticamente scoperto assieme, io e lei. Cioè, sì, non, vero. E questa roba ci ha insegnato moltissimo. Un esempio che facciamo spesso, noi un anno e mezzo fa vivevamo fuori dall'Italia, vivevamo alle Canarie, siamo stati parecchi mesi lì, ok? E noi non avevamo mai fatto nudismo, per esempio. Adesso lo faremo subito lo sì, faremo, cioè senza problemi, cioè questa cosa ci ha aiutato a... Voi siete scambisti, fate orge, com'è la vostra sessualità? Noi sì, ci giochiamo con altre persone, non al momento non abbiamo mai scopato con altri, sì, si fa. Non avete mai scopato con altri? Posso mai... prendere il cazzo di Pandino? Che ecco. Peccato che l'ho fatta fare questa intervista. non so, a noi piace molto l'atmosfera che si genera attorno a certe situazioni, cioè partire di casa con l'idea che qualcuno o che si debba scopare non ci intriga. Cioè, ci piace uscire con l'idea che io e lui probabilmente scoperemo, come no, ma neanche detto come no. E che poi quando sei lì puoi trovare degli amici con cui passi una serata e ti bevi qualcosa come se li avessi incontrati in un ristorante qualunque, oppure che magari finisci a fare i porcelli in piscina. Però, ma questo è solo in base teorica, quando parti da casa può succedere di tutto, come torni a casa tranquillo e felice dove non è successo niente. Quanti anni siete assieme? Quasi tre. Da quanti anni fate cam? Un anno e mezzo. Un anno e mezzo. bene ragazzi, allora che dire, io mi sono autocandidata per ciucciare il cazzo in qualunque forma, se devo parlare purtroppo parlo del resto che vuoi fare, e spero che anche altri si autocandidino, vi contattino, e noi abbiamo tipo 6 o 7 ascoltatori sulla radio. Magari sono grandiosi, cioè magari la qualità 9, quella sera ci saremo anche noi due, quindi 9 è già 9. Ecco, bravi. Dite qualcosa al vostro folto pubblico del salotto della Porno Nerd della Tinca, e così poi vi salutiamo. Cosa possiamo dire? Io, a parte, ti ringrazio immensamente di averci dato questa possibilità per due motivi. Primo perché, quindi la prima volta che io vi ho scritto, se ti ricordi, cioè vi avevo scritto io vi adoro, perché io voi due vi avevo già conosciuti, ma non sapevo foste voi due, ok? Poi io vi ho beccati su Canfora, ho detto, io vi avevo conosciuti per il docufilm Camper. Ah sì, veramente? Sì. Dove l'hai visto Camper? Su internet. E quindi avevo profonda stima di voi. Oltre a questo, sono felicissimo di questa intervista, perché noi oltre a questo abbiamo fatto solo un'altra intervista e non è finita benissimo. No, vabbè, però lasciamo perdere, fa parte della roba. Che dire, cioè... Vabbè, salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, e anche io vi ringrazio per averci ospitato in questa nostra prima ufficiale intervista. Spero di non avervi annoiato, perché io non siamo proprio portati per queste cose, cioè in realtà è molto difficile. Ci avete detto un sacco di cose interessanti e poi siete molto molto affascinanti, siete fascinosi, e quando lavorate è molto molto... quasi poi ipnotizzate quando fate le vostre live, siete molto affascinanti. Grazie. Io sono... E fate anche un lavoro socialmente utile, perché quando Pandina legge, parla, non so adesso dove trovi tu le lettere, le mail, non ho capito dove trovi la roba di cui tu... La posta del clito. Ma lei semplicemente... noi siamo... No, non so se facciamo... che lo fate, dai. No. In realtà non facciamo niente di particolare, cioè... Siamo gli psicologi del porno un po'. Ma no, ma... Date una mano, ragazzi, state dando una mano davvero, cioè... Diciamolo cosa fate. Voi leggete delle mail che vi arrivano, dove ci sono spesso delle domande sulla sessualità a 360 gradi, cioè veramente arriva di tutto. E già la cosa fa ridere, perché noi non siamo esperti in niente, cioè già questo fa ridere di però voi leggete innanzitutto, condividete, commentate in piena umanità e dite il vostro parere, la vostra opinione, da persone che comunque si sono messe in gioco, da persone che ne hanno fatto il loro lavoro, ma di qualcosa che è anche un modo di modellare la propria personalità, di cambiare la propria cultura. L'ultima domanda, e con questa vi lascio: cosa pensate che sia veramente l'aspetto più rivoluzionario, contemporaneo e necessario del fare pornografia oggi? Minchia, domande leggere sul finale. Oddio. Non so darti una risposta oggettiva a riguardo. Posso darti quello che a me infastidisce del porno, ok? E nel mio piccolo cerco di farlo in maniera diversa. Io il porno lo trovo noioso. E quindi qualsiasi cosa faccia riguardo al porno, riguardo alla cultura pornografica, o riguardo anche al semplice fatto di godermi il sesso, cerco di renderlo meno noioso per me. Poi si chiama Porno Nerd il tuo programma, in realtà ho delle idee che forse vanno parecchio d'accordo con il concetto di nerd. Io ho il sospetto che le cam, così come le intendiamo noi, non possano esistere per ancora moltissimo tempo, perché chi fruisce adesso principalmente delle cam ha una certa età. Fra 10 anni le persone che usufruiranno delle cam sono persone che sono cresciute con Twitch, sono persone che sono cresciute con YouTube, non sono più millennial, sono persone che sono nate con i social, e una cam noiosa e poco interattiva non se la cagheranno, perché se tu cresci guardando FaVJ giocare ai videogiochi con un contenuto che è frizzante, con un contenuto che è veloce, con un contenuto che va fuori, che spenta la cam, a una community, a gente che si ritrova sui gruppi, che discute, che fa, queste cose la ricercherà anche con le cam girl. No, io condivido. No, io condivido pienamente. Ci tengo a fare una precisazione, visto che anche se ascolteranno solo in 9, però è giusto farla. Porno panda, sì, tutto vero, però in realtà i porno panda sono 3, uno non lo si vede mai, che è Bricco, che è quello del nostro moderatore, che è una colonna che a vedere da fuori non sembra così, ma in realtà per come viviamo e gestiamo noi porno panda è una figura assolutamente fondamentale, perché poi ci aiuta a seguire i gruppi Telegram, i social, tutta una serie di cose, cioè ci si sente tutto il giorno. Lui è il porno panda che nessuno vede, ed è quello che ci gestisce completamente in totale autonomia la moderazione. Lo pagate o perché vi adora? È un progetto che stiamo vivendo e costruendo assieme. Esatto. Ovviamente ci adora, non è così. Poi lo teniamo chiuso in cantina, quindi. Ah, ecco, un piatto di polenta. Però ci tengo a specificare questa roba, perché lui è veramente una figura che è fondamentale per noi, cioè nonno. Bricconcello fa molto una roba da sfigati. Perché si chiama Bricconcello. Sì, però chi sta ascoltando la radio da casa dice che questi fanno sesso in cam e c'è uno che si chiama Bricconcello, si può sentire. Se fai il community manager. No, quello purtroppo lo faccio io, perché non avendo abbastanza cose da fare durante il giorno. Ma voi avete anche altri lavori o riuscite a vivere solo di cam? Viviamo solo di porno pack. Esatto. Vivono solo di Porno Panda, del loro progetto creativo, artistico, Radio Porno Panda su Canfor, sessualità raccontata, sessualità praticata, sessualità ascoltata, perché voi ascoltate un sacco anche il vostro pubblico. Siete secondo me un progetto innovativo e ecocompatibile, perché non inquinate né sul piano materiale né sul piano ideologico e concettuale, perché producete solo cose che fanno bene e riuscite a campare così in due in una città urbanizzata del primo mondo. Bravi! Questo è veramente in gamba. E ci sembrava follia. Ci dici, ma questi come fanno? Ma com'è possibile? Io mi ricordo che la prima volta che abbiamo fatto 10 euro su Chaturbate ho guardato lui e ho detto, ma davvero? Ci ha pagato. E adesso dopo un anno e mezzo è il nostro lavoro. C'è da fare un'altra puntualizzazione che a me piace fare, ok? Sì, è vero, noi facciamo un modo di cam diverso, bla bla bla bla bla, ma perché in realtà è un trucco. Cioè, parliamoci chiaro, cioè, quando abbiamo visto le vere top player fare cam, noi ci sentiamo, queste sono atlete, cioè, ma come si fa? E allora ci siamo dovuti inventare qualcosa. Quindi 4 volte a settimana, di cui una porno pandina sola, esatto. Vendete live, fate guardare lo show radio, poi avete video in vendita, avete anche un profilo su Pornhub? Sì, ma in fase di studio. Behind the live, dietro. Behind the live. Perché Instagram non ci ha accettato Porno Panda, se no. Secondo voi è vero che gli anglofoni pagano meglio che gli italiofoni? Secondo me gli anglofoni pagano e gli italiofoni no. Perché l'italiano fa tanta fatica a pagare online? L'italiano fa fatica a pagare qualsiasi cosa che non può toccare con mano, cioè questa non è una cosa riguardo il porno, cioè io l'ho sempre visto anche con la fotografia. Se uno straniero percepisce il valore digitale, il valore di qualcosa che, cioè, l'italiano percepisce, io questa tazzina la tocco, allora può valere anche 50 euro. Questo file non lo tocco, allora è gratis. Basta. Cioè, ma anzi, ancora peggio, l'italiano parte da un principio: tu fai un lavoro che ti piace, allora non devi proprio guadagnare, perché tu stai facendo una roba che ti piace e sei già fortunato. Ragiona così nella musica, nella fotografia, nell'arte, cioè, non, l'italiano è così. Dai, tu fai questa cosa che io ti faccio conoscere agli amici, cioè è così. Sì, perché il guadagno equivale all'espiazione per sì, noi, ragazzi. Sì. Esatto, ma poi quando facevamo molto più fotografia c'era gente che diceva sì, ma vieni qua, mi fotografi, poi ti pubblicizzo su Facebook. E poi con cosa vivo? Mangiando Facebook, mangiando i like di Facebook. Va bene, allora salutiamo, e quindi salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando. Grazie per aver fatto in modo di ascoltarci per questo ora. Sopportato, ora... staccheremo e inizieremo a dire cose interessanti. Va bene, io piscio e continuiamo freestyle. Poi, ti sono tenuto. Oh, ma adesso li grazie raccontiamo. A tutti, ragazzi. Grazie. Pandina e Pandina, Radio Porno Panda. Non si ricorda. Aspetta, che... mai come vi chiamate? Come vi chiamate? Pandina e Pandone, dai. Ah, Pandina e Pandone. Dai, stacca, che adesso ti raccontiamo di quella volta che Pandina è stata con tre elefanti. Dai. Inca.